Ciao e benvenuto al Pastore Tedesco, lo spettacolo che ulula di gossip. Nell'episodio di oggi discuteremo di chi ha vinto Sanremo con Olly. Discuteremo di dettagli e di come si è sentito quando l'ha vinto. E offriremo agli ascoltatori una sorpresa speciale alla fine. Assicurati di ascoltare fino in fondo per i dettagli. Ora reciterò il motto e lo slogan del Pastore Tedesco. Il motto è "I ricordi di domani" e lo slogan è "Tutti per il pastore tedesco". Adesso darò la parola a Bianca Falciola che ci canterà la sigla del pastore tedesco. Come già avvisato, adesso intervisteremo Olly. Sei stato impressionato o ti aspettavi di vincere? Non me l'aspettavo, ma mi è piaciuto anche perché quando ero al ballottaggio finale ero con Lucio Corsi e quindi pensavo che vincesse lui, perché lui ha fatto molta più carriera di me, invece quando hanno detto il mio nome mi sono subito gasato. Come ti sei sentito quando l'hai vinto? Stupito e un po' anche emozionato. Mi sono sentito felice e contento. Anche perché la mia canzone era più sentimentale, invece quella di Lucio Corsi era più sulla sua mamma e quindi proprio non me l'aspettavo. Mi racconta qualcosa di lei? Sì, certo. Vengo da Genova, un paesino piccolino. È bello, è molto portuale, soprattutto quando c'è l'ombra e si può fare tutto con molta più calma. Da quanti anni fa il cantante? Lo faccio da 8 anni. Grazie Olly di essere stato con noi. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Tutti per il pastore tedesco. Ciao e benvenuti al secondo episodio del Pastore Tedesco. Oggi intervisteremo Lucio Corsi. Aspettavi di essere arrivato secondo? Non me l'aspettavo, ma vedevo che i miei fan mi incoraggiavano a cantare e arrivare sul podio. Come ti sei sentito? Capito, e se ti devo dire la verità, anche un po' triste di non aver vinto. Da quanto fa il cantante? Lo faccio da 14 anni. Dove sei nato? Nato a Grosseto. E ora salutiamo Lucio Corsi e lo ringraziamo di essere stato qui con noi. E noi ci vediamo al prossimo episodio del Pastore Tedesco. Tutti per il Pastore Tedesco. Grazie anche a te, Lucio, di essere stato con noi e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Benvenuti al terzo episodio del Pastore Tedesco, dove intervisteremo Tonks, uno youtuber. Ciao, quanti anni hai? Grazie di avermi invitato e volevo ringraziarvi tanto perché questa occasione è molto importante per me. E comunque io ho 30 anni. Qual è il tuo vero nome? Il mio vero nome è Antonio Giulio. Quando sei nato? Sono nato il 14 aprile 1995. Dove vivi? Vivo a Bentivoglio, a Bologna. Quando è nata questa passione di fare lo youtuber? Questa passione è nata nel 2009. Quanti video hai fatto? Ne ho fatti oltre 1000. E ora ringraziamo e salutiamo Tongs. Noi ci salutiamo qui. Tutti per il pastore tedesco, la radio che ti entra nel cuore.